Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Ci sono compiti che il rudimentale sistema nervoso di una formica è in grado di svolgere, come per esempio riconoscere gli oggetti presenti nell'ambiente. E questi compiti risultano molto difficili, ostici, quando non impossibili, invece per un supercomputer. D'altro canto, la più semplice delle calcolatrici è in grado di eseguire calcoli molto più velocemente di un cervello umano con i suoi 100 miliardi di neuroni. Il fatto è che i computer e i cervelli processano l'informazione in modo completamente diverso, ciò che li rende molto abili nell'eseguire dei compiti che sono del tutto diversi e spesso complementari. Ecco perché sono in corso ricerche in tutto il mondo il cui obiettivo è mettere a punto delle nuove tecnologie, delle architetture elettroniche che permettano di realizzare chip in grado di elaborare l'informazione esattamente come fa il cervello. Ed è quello che si prefigge il progetto Neuram 3, finanziato dall'Unione Europea e finalizzato alla realizzazione di un chip neuromorfico, quindi ispirato al sistema nervoso, che vede la collaborazione tra imprese e centri di ricerca europei, tra cui l'Istituto per la microelettronica e microsistemi del CNR di Agrate Brianza, di cui abbiamo in linea Stefano Brivio. Buonasera Brivio. Buonasera. Allora, ricercatore del CNR impegnato in questa ricerca. Allora Brivio, senta, ci ricordi intanto le principali differenze fra questi due modi diversi di elaborare le informazioni e anche qualcosa sulle architetture che ci stanno sotto? Sì, esatto. La differenza sta proprio nella struttura, nella loro struttura, perché i computer sono costituiti da una logica e da una memoria e c'è un continuo trasferimento di informazioni da uno all'altra che sovraccarica tantissimo questo canale di comunicazione e impedisce l'apprendimento automatico da parte del computer. Invece, per avere apprendimento, che è quello che è in grado di fare il nostro cervello, è necessario avere la logica e la memoria integrate in un'unica unità. E per questo esistono i neuroni e le sinapsi. Quindi abbiamo il microchip, diciamo, in un computer che elabora delle informazioni sequenziali che pesca una alla volta dalla memoria, no? Questo fa il computer, bene o male. Mentre i cervelli sono fatti da tanti neuroni, ognuno dei quali elabora l'informazione ma ne mantiene anche memoria. Questa è la differenza. E ognuno di questi neuroni, che sono invece miliardi, non come il microprocessore che è uno solo, sono anche connessi fra loro. E contemporaneamente questi neuroni processano le informazioni e si scambiano informazioni da uno all'altro attraverso le sinapsi, che hanno il compito di memorizzare dei pesi che vanno a modulare l'effetto di ogni neurone sugli altri neuroni. Esatto, è proprio così. E l'idea è che per ottenere un sistema che sia funzionale come quello del nostro cervello è di replicarne anche la struttura. Certo. Quindi di replicare i neuroni e le sinapsi con dispositivi o insieme di dispositivi elettronici. E qui siamo proprio all'obiettivo del vostro progetto, che è quello di fare un dispositivo fisico, perché adesso dicevamo replicare, ma vengono simulati questi neuroni artificiali, chiamiamoli così, queste reti neurali, vengono simulati attraverso dei calcolatori tradizionali, ma in realtà è molto poco efficiente, no? È un po' questo il tema. Assolutamente, ci sono dei sistemi software che sono in grado di apprendere, di fare un learning, un apprendimento, e di replicare alcune funzionalità del cervello, ma sono estremamente poco efficienti e poco riprogrammabili. Per questo l'idea è quello di creare neuroni e sinapsi con dispositivi o insieme di dispositivi fisici, elettronici, e diciamo, siccome le sinapsi sono molte di più dei neuroni nel nostro cervello, ci sono circa 10.000 sinapsi per ogni neurone. Certo. È molto più complicato riuscire a fare le sinapsi, che devono essere piccole e nanoscalate, mentre i neuroni possono essere composti da diversi transistor, diversi componenti elettronici che già esistono. E quindi la soluzione per queste sinapsi, che appunto sono migliaia per ogni neurone, quale potrebbe essere? L'idea è proprio quella di usare questi nuovi dispositivi chiamati memory store, mm-hmm. che sono dispositivi che sono capaci di variare la loro resistenza attraverso diversi stati. La resistenza è un concetto fisico che consiste nel fatto di opporre una resistenza al passaggio di corrente, così come per le resistenze che sono nei forni. Sì, sì. Solo che questi memory store sono in grado di cambiare la propria resistenza e tenere traccia degli stimoli precedenti. Quindi in questo modo sono in grado di modulare la comunicazione tra diversi neuroni e riconfigurare la rete di connettività che sta alla base dell'apprendimento. Ecco, quindi che cosa pensate sarà in grado di fare questo chip neuromorfico una volta che avrete finito di svilupparlo? Allora, anche se non è stato definito un obiettivo, un'applicazione specifica all'interno del progetto, l'idea è quella di costruire e realizzare su silicio un vero chip neuromorfico che è in grado di imparare. Per darvi degli esempi, dei chip neuromorfici possono essere in grado di riconoscere immagini, suoni. Mi viene in mente riconoscere il pianto di un bambino anche in mezzo immersi nel traffico di Milano. Cose di questo tipo. E fare tutto questo con un piccolissimo consumo di energia che permetterebbe di inserire questi dispositivi, questi sistemi anche in telefoni cellulari, in piccoli oggetti di uso quotidiano. E che hanno poca energia a disposizione per svolgere questi compiti. Va bene, grazie allora Stefano Brivio e buon lavoro. Grazie a lei. Va bene, ci fermiamo qui, appuntamento come sempre a domani sera, buona continuazione qui su Radio 24.